Ciao, sono Sergio, sono un giornalista radiofonico, non soltanto, anche scrivo su varie testate elettroniche e sono un operatore culturale tutto tondo, organizzo anche molti eventi culturali e non è soltanto da quando è scattata l'emergenza del coronavirus che il settore in cui lavoro è, diciamo, in crisi, ma in questo momento ha totalmente distrutto ogni cosa che potesse portarmi del reddito, comprese anche le lezioni di scrittura che tengo per vari enti. Vi leggo una favola che viene dalla Liberia ed è stata trasposta da questo migrante che si chiama Omaru Camara ed è contenuta nel libro Favole in viaggio, 20 storie migranti, che è uscito per Valigie Rosse a cura di Valerio Nardoni. E il titolo della favola è Il miglior amico dell'uomo. C'era una volta in un villaggio lontano un ragazzo che viveva tutto da solo. Non aveva padre, non aveva madre, non aveva parenti, non aveva amici, non aveva nessuno. Un giorno i capi del villaggio si riunirono e dissero: come fa un ragazzo a vivere senza madre, senza padre, senza nessuno che gli voglia bene? Non è possibile. Così, di comune accordo, decisero di consultare il re per chiedergli consiglio. Signore, nel nostro villaggio c'è un ragazzo che non ha genitori, non ha parenti, non ha nessuno, proprio nessuno. Com'è possibile? Il re, dubbioso, chiese: ma qual è il problema? Cosa volete che faccia? Alcuni dissero: bisogna assolutamente allontanarlo dal villaggio. Questo ragazzo non è un essere umano come tutti, deve essere uno stregone. Il re condivise la preoccupazione degli anziani e disse: voi siete gli anziani del villaggio, se avete deciso di portarlo lontano da qui, io consento al vostro volere. Arrivarono dunque alla conclusione che il ragazzo dovesse lasciare il villaggio e andare a vivere nel bosco con gli animali. Il ragazzo rimase atterrito da quella notizia. Per tutta la notte pianse, pianse, pianse, implorò aiuto, ma non aveva nessuno e nessuno voleva aiutarlo. Finché, finite tutte le lacrime, si disse: se le persone del mio villaggio hanno deciso che devo allontanarmi, allora è questo che io devo fare. E lasciò il villaggio. Passarono i mesi, il ragazzo scomparve e non si seppe più nulla di lui. Anche nel bosco il ragazzo non aveva nessuno che potesse dire di averlo incontrato. Si lamentava tra sé: oddio, perché mi sta capitando tutto questo? Perché io? Perché a me? Vivo qui solo con questo cane, non ho nessuno. Perché? E giorno dopo giorno chiedeva a Dio le stesse cose. Ma un giorno gli capitò una cosa fuori da ogni immaginazione. Mentre, come al solito, si stava lamentando: oddio mio, ho bisogno che tu mi dia qualcuno, non posso vivere così, solo come un cane con il mio cane. In quel preciso momento il cane iniziò a parlare e disse: ma come? Ci sono qui io, non devi piangere. Il ragazzo non credeva alle sue orecchie. Chi sta parlando? È il cane. Sono io che parlo, il tuo cane, sono io che ti sto parlando. Oh, esclamò il ragazzo, tu non sarai mica uno stregone trasformato in cane. Com'è possibile? Come mai è possibile? Ma il cane, con tutta calma, rispose: hai chiesto tanto a Dio di ascoltarti, di darti un amico con cui parlare, e ora Dio ha esaudito la tua richiesta. Io ti parlo e tu ti sorprendi? Perché? Non ti sorprendere, sono qui per aiutarti. Ed è il volere di Dio. Questo fu quanto disse il cane. Il ragazzo invece rimase così allibito che si ammalò per qualche giorno. Col passare del tempo, poi, il ragazzo si abituò a parlare con il cane, a comunicare con lui e a farsi aiutare in tutto quello che faceva, finché un giorno gli chiese di riaccompagnarlo al villaggio da dove era stato cacciato. Quando arrivarono, era il grande giorno del mercato. Dai villaggi vicini erano arrivate tantissime persone per comprare o scambiare mercanzie. Il ragazzo passeggiava e chiacchierava col suo amico cane davanti agli occhi sgranati della gente. Gli anziani del villaggio lo riconobbero e dissero: com'è possibile che il tuo cane parli? Abbiamo vissuto per 2000, 3000, 5000 anni e una cosa del genere non era mai accaduta. Dobbiamo immediatamente dirlo al re. E come la volta precedente, si fecero ricevere dal palazzo. Re, disse il più anziano degli anziani, Abbiamo assistito a un evento che non è mai accaduto prima, neanche i nostri antenati udirono mai una cosa del genere. Abbiamo assistito a qualcosa che va al di là della nostra immaginazione. Abbiamo assistito a qualcosa che... Ma il re questa volta era veramente incuriosito. Di cosa state parlando? Di cosa si tratta? Ditemi. Signore, abbiamo visto un uomo al mercato che parlava al suo cane e il cane gli rispondeva. Questo non è possibile, disse il re alzandosi dal trono. Nemmeno dai miei antenati ho mai sentito raccontare una cosa del genere. Portatemi quest'uomo. Se davvero, come dite, egli ha un cane che parla, io gli darò metà del mio regno. Allora il re non fece altro che aspettare. Radunò nel frattempo tutto il villaggio per farlo assistere a questo evento straordinario, di cui sarebbe rimasta eterna memoria. Quando il ragazzo arrivò, tutti i presenti lo accolsero con grande festa. Tu sia il benvenuto, disse il re. Chi sei, ragazzo? Sono l'uomo di cui gli anziani ti hanno parlato. Sono l'uomo che gli anziani hanno sentito parlare col proprio cane e il cane rispondergli. Sono quell'uomo. Allora il re disse: Bene, vieni al centro della piazza e parla al tuo cane. Tutti stavano assistendo a bocca aperta. Il ragazzo andò al centro della piazza col suo cane e iniziò a parlargli. Ma il cane si rifiutò di rispondere. Amico mio, sto parlando con te. Rispondimi, sono il tuo amico, disse ancora il ragazzo. Ma il cane rimase impassibile. Il ragazzo ci riprovò ancora una volta, ma anche questo, il terzo tentativo, fu vano. Allora il re, con tono severo, disse: Se il cane si rifiuta ancora di parlare, ordinerò alle guardie di tagliarti il collo. Il ragazzo parlò nuovamente al cane. Amico mio, permetterai a queste persone di uccidermi? Ne abbiamo passate tante insieme. Non permettere che mi uccidano così. Rispondimi, rispondimi, ti prego, rispondimi. Ma il cane si rifiutò. Quando le guardie erano ormai pronte per tagliare il collo al ragazzo, questi gridò: Aspettate, fatemi provare un'ultima volta, vi prego. Poi, tra lacrime e singhiozzi, si rivolse al cane e cominciò a dire queste parole: Amico mio, ti prego, parlami. Rispondimi, non mi abbandonare, parlami, parlami da amico, parlami, perché quando tutti mi avevano allontanato dal villaggio, tu solo eri lì per me. Tu sei il mio migliore amico, sei mia madre, sei mio padre, sei mia sorella, sei mio fratello, sei tutto. Per l'ultima volta, parla ancora, parlami. Nell'aria si creò un silenzio innaturale, poi, con grande meraviglia di tutti, sono qui. Non ti capiterà niente, disse il cane. E tutti applaudirono, persino il re, che dovette cedere al ragazzo metà del suo regno.